Dai, accendi. Runtime Radio, siamo tornati. 2021, yeah! Runtime Radio presenta Ludico Forum. For my mind to run around, with my ear up to the ground, I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, that was smiling when I turned. Qualcuno, non tutti, ma qualcuno sicuramente avrà riconosciuto queste poche note che vi stiamo mettendo a disposizione qui dalle meravigliose frequenze pirata di Runtime Radio, www.runtimeradio.it, la web radio solo geek, sempre a disposizione per voi, sempre con voi, sempre a farvi compagnia, sempre dentro le vostre case, a farvi i cazzi nostri. Comunque, questa, insomma, dicevamo che è un brano che alcuni di voi sicuramente avranno riconosciuto, ma prima di parlare di questo e prima che il computer impazzisca e faccia altre cose, vi presento Marco Gualdi. Ciao, sto giocando a Mass Effect in questo il gioco più bello di sempre. Di sempre. Tra l'altro tu lo sai che proprio questi giorni alle ore allora fammi ricordare, alle ore 11 e alle ore 17 su Runtime Radio sono iniziate le primissime storiche puntate di Etrologia Videoludica, quando ancora ci pagava la EA. Esatto, e infatti c'è la prima puntata ieri, è stata quella su Mass Effect, quindi insomma è stato molto molto divertente. E salutiamo anche Carmine Puccio Console. Ciao ragazzi, ma il fatto che esca, è probabile che Amazon abbia commissionato una serie TV nel mondo di Mass Effect? Beh, ma magari, io l'aspetto da un sacco di tempo sta cosa. Pare che sia una cosa fatta. Solo che faranno quei cartonati al posto degli alieni, quindi. Beh, no, dai, Amazon i soldi ce li mette. Beh, diciamo una cosa, che in realtà quale serie televisiva possa essere più inclusiva, dato che mo va molto di moda questa cosa di Mass Effect, vista insomma che tutti scopano con tutti, con cioè, qualsiasi uno razza. In particolare non faceva distinzioni, razza, colori, esatto. Specie. E vabbè, ma quello è ovvio, perché se il modello di base è Kirk, è logico che coppi con qualsiasi creatura dell'universo conosciuto. Comandante, siamo sull'orlo dell'estinzione galattica. Ah, sì, va bene. Arrivo. Ma non lo faceva per consolarsi, giustamente. Esatto. Cioè, pensarci. Devo raccogliere domani l'energia. Magari moro. Esatto, bravo, per affrontare una grande battaglia. Allora, quello che diceva a tutte quante le aliene che andavano, magari domani moro. Esatto. Dai, esatto. Io penso che questa scusa secondo me ha funzionato tante volte. Senta, cioè, ma lei non è che mi piace, ma magari domani moro. Ah, vabbè. Ma domani magari moriamo tutti per quella cosa. Magari mori anche un pochino. E vabbè, niente, mettiamo un po' d'ordine. Allora, prima cosa, i feedback della primissima puntata della seconda stagione di Ludico Forum. Tra l'altro salutiamo Pixel Deb e Alawin che hanno partecipato con me a questa primissima puntata. Puntata molto carina, e la gente mi ha scritto: sei il solito bugiardo, perché la gente non ha apprezzato il fatto che dopo aver detto che Runtime non avrebbe fatto più programmi su videogiochi. E niente, se la sono un po' presa, diciamo. Infatti questo non è un programma sui videogiochi, esatto, cioè, esatto. Fino ad ora abbiamo soltanto parlato di videogiochi dicendo belli, Mass Effect, esatto. Basta, bravo. La mia idea è quella di fare una cosa dove si parla di un po' tutto, cioè un tipo un salottino, pochissimi, senza, a volte magari anche senza un argomento, pigliamo e parliamo. A volte questo sarebbe il clou, anche senza parlare. Apriamo e esatto, c'è una puntata di Bojack totalmente non parlata, bellissima. Lì c'era il video. Grande serie sperimentale. Sì, è vero, lì c'era il video che in effetti poi compensava in qualche maniera. Possiamo mettere qualcuno che descrive quello che stiamo facendo, esatto, mentre non parliamo. Esatto. Oppure in russo. Russo, no? Sarebbe... Secondo me la prossima puntata la facciamo in morso, così. Può darsi che funzioni, ma secondo me un russo che racconta ciò che sta succedendo, esatto, perché ricorda che i russi non doppiavano, esatto, loro non doppiavano, loro lo spiegavano, quindi quando c'era il cane che faceva io vorrei dare comunque un'informazione di servizio ai nostri ascoltatori: la mia scheda video è partita dal magazzino dopo ordinata avantieri più o meno, in realtà con suspense, perché in realtà io l'ho trovata. Scusa, come avantieri, che sono 9 mesi che ci stai a rompi i coglioni con sta scheda, scusa. Però l'ho potuta ordinare, o meglio, ma poi avantieri, scusa, lo diceva mia nonna avantieri, però a lui è tu sei mia nonna, ma io sono anziano, è probabile, c'ho più o meno l'età, eh sì, perché purtroppo la congiunzione astrale favorevole soldi più disponibilità della scheda video si è verificata soltanto lunedì, in realtà l'ho trovata tramite un negozio di Bari con cui ho dei rapporti prevalentemente di lavoro, che mi ha detto: senti, nel momento in cui quella che vuoi tu sta disponibile, te paghi e io te la faccio spedire direttamente dal magazzino, così manco te la devi venire a pigliare al negozio, e niente, dopo che così, se ti arriva il mattone, neanche poi di cazzi, no, non può farvi. No, comunque è un piacere essere tornati con voi, perché ovviamente se uno ha poi come posso dire, una sorta di progetto di trasmissione, va sempre tutto un po' così a casaccio. Ma torniamo in focus, a Puppuccio. No, scusa, aspetta, no, troppo, no, troppo focus. Fermo, prima di tutto, allora, perché abbiamo messo quel brano all'inizio? Quel brano è estratto dalla sigla, dall'intro di Arcane a League of Legends Story, che è una serie a League of Legends. Allora, aspetta, no, infatti questo ci volevo arrivare, a questo, che è una serie su Netflix, che quando io ho visto i trailer ho detto: beh, però è carina, ci ha ambientato sul mondo di League of Legends. Io conosco il fatto che esiste il videogioco di League of Legends con una lore abbastanza, che esiste un mondo, tu conosci, esatto, che esiste un mondo. Esiste un mondo, ma se devo dire, non so neanche che tipo di gioco sia, non mai, eppure so anni che esiste, mai cagato proprio. Uno spara tutto in terza persona plurale, però, cioè, quindi è molto in terza persona. Terza persona. Salutiamo Deb che ci ascolta. Deb, se vuoi ti mando il link della riunione, puoi partecipare quando e se vuoi anche a questa. Questa è una riunione di condominio. Condominio, esatto, sì, perché Skype le chiama riunioni, quindi io mi adeguo al fatto. Sì, quindi è giusto, è una riunione questa, insomma, che... Io vado, quando ritorniamo a focus devo chiedere una cosa a Puccio. Comunque, sì, segnatelo, perché tu te lo Segnamelo tu. Io mi segno che quello che mi devo segnare, okay, le cose. Okay. Allora, devo dire, questa serie, non conoscendo niente di League of Legends, l'ho affrontata, diciamo, con una certa sparagnaus, cioè, nel senso, non è che ero particolarmente interessato, ma già dai primi fotogrammi sono rimasto molto molto molto colpito. Prima di tutto è tecnicamente, artisticamente una serie dei miei coglioni, cioè, proprio, devo dire la verità, bellissima, fatta bene, realizzata bene, e finalmente, ragazzi, una cosa che tu pensi che sia un cartone un po' sparagnaus, in realtà c'è una trama matura e anche inaspettata, inattesa, diciamo così. È una di quelle cose che a un certo punto rimani un po' così, tipo, ma tutta sta roba in un cartone animato solo? Gente che muore. Sì, no, ma non solo... tematiche importanti, insomma, tutto sommato, sì. E quindi io non voglio spoilerare niente, non conosco assolutamente minimamente i personaggi, non so quanti personaggi che sono in questa serie siano realmente canonici all'interno del, realmente esistiti, del contesto. Dove lo trasmettono? Su Netflix. Ah, peccato. Vabbè, ma se vuoi io me la rivedo volentieri, Ah, vabbè, ma rivedo proprio volentieri, perché guarda, fatta magari veramente... ce la vediamo con i sottotitoli zbeki, no, così. Con anche Morse, esatto, o russo. Guarda, devo dire, veramente mi è piaciuta tantissimo. Ve la consiglio, provatela. Poi dico, a parte il professor Simbergirden lì, come cazzo si chiama? Svandenberg, sì, non so come cazzo si chiama. Penso che tutti gli altri siano tutti personaggi non esistenti all'interno del contesto. Credo ce ne siano due, ne ho visto, ma io non l'ho vista ancora tutta, poi non saprei. Però bella, veramente bella. Devo dire, sono rimasto molto, molto sorpreso. Anche la qualità tecnica, diciamo, insomma, della computer grafica con la quale è fatta, sicuramente è Unreal Engine 5, però fatto bene, sì. Cioè, nel senso, fatto bene, che sono state, oggi stavo vedendo forse una delle ultime puntate, ancora non l'ho finito, c'è un dialogo fra due personaggi femminili e una dei due a un certo punto fa un'espressione con gli occhi, abbassando un po' gli occhi, tipo ho accusato il colpo. cioè, cioè molto realistico come tipo di lavoro sulle espressioni. Cioè, ragazzi, io ve la consiglio. Assolutamente. Pure Puccio la sta vedendo, giusto? Sì, sì, sì. No, ho visto i primi due episodi perché sono stato distratto da altro. Però sì, è molto è notevole. Soprattutto io veramente non mi aspettavo ci avessero messo sopra così tanti soldi. Perché diciamo Netflix tendenzialmente su questo tipo di prodotti è nota per andare, diciamo, col braccino da T-Rex. Invece, bomba. C'è proprio due episodi in cui forse i soldi li ha messi la, come si chiama, Riot, la... sì, c'ha sì, Riot è un'altra sì, che c'ha i soldi infiniti. Tra l'altro è la produzione è allora la distribuzione e produzione è Netflix, ma ovviamente la realizzazione dei Riot Games, cioè c'è proprio scritto all'inizio. Io mi pare che fosse una collaborazione, cioè che sia stata Netflix a chiedere il prodotto e Riot. Beh, si è fatto lo stile visivo, vuoi, diciamo, ma... lo stile artistico è quello di Riot, è proprio quello di League of Legends, da quello che vedo, insomma, ovviamente molto più maturo, diciamo, molto più costruito, nel senso tecnicamente. League of Legends è un po' più cartonesco, però un po' più caricaturale. Esatto, sì. Invece però comunque lo stile si vede che è quello, cioè nel senso l'impronta, anche gli occhi, il modo in cui ci sono alcune cose che insomma si vede che sono abbastanza quelle. Ma veramente, ragazzi, io sono rimasto sorpreso. Tanto Deb dice ci ascolta con la copertina col cellulare, quindi vabbè, niente, non partecipa alla riunione, casomai scrivici quello che vorresti mettere tu. E questa poi è una delle prime cose, perché per esempio mi piacerebbe parlare anche ogni tanto di cose che sono extra videogiochi, anche se in questo caso vedi che poi alla fine sono collegate. Per esempio Marco, so che si sta vedendo, che ne so, l'anime di The Witcher, per esempio. No, non l'ho visto. Non l'hai visto. Non lo guardare, Marco, salvati finché sei in tempo. Lo sapevo, lo sapevo. No, io invece la prossima cosa è qua. Posso chiedere una cosa a Puccio? Dai, che c'hai la cosa del focus, sì. Un pochino poco. Allora, non per niente ho detto che prima Mass Effect è il miglior gioco di sempre, perché sembra che ci sta questa notizia che adesso gira, che mi stanno riproponendo in tutte quante salse, che Dark Souls ha vinto il premio Manetta d'Oro, miglior gioco come miglior secolo. Gioco di sempre. Ma in che senso, vabbè, però? Non l'ho capito neanche io, perché poi in realtà c'è uno sproloquio. Cioè ah, ecco perché tu l'hai collegato alla cosa del, perché sì, ovviamente sì, noi siamo in disaccordo, perché noi, secondo noi il miglior gioco di sempre è Mass Effect. Esatto. Indovinate chi è lo stronzo che si è comprato la leggendaria edition. Ma guarda che ci ho pensato anch'io. Pieno, vai. Io in realtà sono rimasto inculato, perché pensavo che la mettessero sul Game Pass. Ma cioè, forse lo metteranno. Ma dai, c'è tutta la roba di EA lì, tutta in prima fila, c'è FIFA, ci sono tutti. C'è la versione enhanced, quella quando facevano il primo reskin. Allora, sentite, la giustificazione sta la trovate tradotta, credo, praticamente in qualsiasi sito italiano che parli di videogiochi, ed è una super cazzola terrificante in cui hanno inserito roba tipo qualità autoriale, livello della narrazione, tutto meglio di Subaku, chiaramente. No, il povero Subaku che fa anche roba notevole, ma il problema è che nasce con uno scopo diverso, che non credo di essere quello di essere un prodotto artistico, ma quello di essere la versione moderna dei giochi arcade, in cui ti devi imparare i pattern, devi imparare come si muovono i nemici, attacchi, contrattacchi, cioè che poi intorno sia stata costruita una lore che in realtà nel gioco è anche difficile da capire. È un po' come Hollow Knight, la trama non te la racconta, la devi capire tu. Devi capire tu che sta succedendo, ti devi informare. Eppure guarda, il riassunto tecnico del primo Dark Souls di Marco Gualdi è: ho iniziato a giocare, è figo, però dopo un po' mi sono rotto il cazzo. Esatto. Sì, ma più o meno è quello che ho detto pure io quando ho provato, ma non tanto Dark Souls, io provai Demon's Souls per PlayStation, non mi ricordo chi è stato il figlio di me. Oddio, che Demon's me l'ha prestato. Quello con le pedine? No, Demon's Souls era quello più difficile di Dark Souls. No, le pedine, i pawn, come si chiamano? I bound. Ah, sì, il fatto che c'erano i pezzi, sì. Quello lì. Però quello lì che... Sì, ma parla al microfono. No, Dragon Dogma forse era. Ah, ma tanto sono più uguali. No, per quello me, che c'ha i pezzi degli scacchi è Dragon Dogma. No, i pezzi degli scacchi. Vabbè, comunque... Sì, vabbè, comunque per me sono tutti uguali. Mi sembrava particolarmente Demon Soul, quindi... Cioè, Dark Soul... Ma sono tutti Demon Souls. Allora, sentite, io vi dico la verità, nella mia vita... Siamo Demon's Like, quindi... Souls-like. Souls-like, scusa. Io sono riuscito con grandissima difficoltà a finire il terzo, ma proprio impegnandomi tantissimo in Dark Souls, e ho semplicemente capito che io non c'ho più l'età per fare quella roba. Ma è appunto, è evidente, cioè pensa te che sono più vecchio di te sicuramente, che poi non è che, cioè vedevo di, non è che sono brutti tutt'altro, cioè qualitativamente sono prodotti della Madonna, non metto in discussione questo, è proprio che non è più roba per me, che sono vecchio rincoglionito. Vedi che poi io non è che il tempo poi non ce l'ho perso su altre tipologie di gioco, tipo io ho tipo qualche migliaio di ore su Hollow Knight, che a livello di difficoltà insomma non è che sia esattamente una passeggiata di salute. Mi sono finito Caped impegnandovi al massimo beccando il, noi abbiamo finito Capena. Insomma, cioè non è che a me la difficoltà che mi dà fastidio il fatto che mi ci devo impegnare, è il fatto che i Souls sono, tolto il terzo, cioè i primi due, talmente tanto punitivi che ti fanno proprio passare la voglia di andare avanti, per quello che ma non è neanche il fatto che sono punitivi, è che sono ripetitivi, cioè, ma fino al voglio, sì, però ma secondo me sono adatti per l'hardcore gamer che c'ha voglia proprio del, cioè proprio lo spirito competitivo di oh l'ho finito, guarda quanto, però c'ho, devo dire, cioè c'ho quanto c'ho. Se devi trovare qualcosa che ti stimola, possono essere le boss fight, che sono effettivamente bellissime. Le cose boss fight. Fight. Dottor V. Vabbè, vabbè, prego, Puccio. Non si adiri. No, ma avete detto di peggio nella vita. Purtroppo ho 3.000 difetti di pronuncia, come tutti i baresi che si rispetti. A parte i combattimenti, ma cioè la questione della mappa, in effetti, se ti ci puoi perdere dentro, puoi trovare scorciatoie, sistemi per arrivare in punti che ti sembrano soltanto lontanamente raggiungibili, ma che in realtà lo sono. Tutta roba, per carità di Dio, bellissima, ma che francamente a me non è riuscita a farmi scattare quella cosa che dice, vabbè, mo mi ci impegno. Cosa che per esempio ho fatto con Breath of the Wild, ho fatto con Hollow Knight. I Souls, non lo so, saranno le tematiche, sarà l'ambientazione, sarà che è tutto grigio 99 volte su 100, proprio niente. Non lo so, non sono riuscito ad appassionarmi. Mo sto aspettando Elden Ring, perché pare che insomma ci abbia una curva di difficoltà calibrata in maniera diversa, però è sempre roba di Miyazaki, però sempre... non è doppiato in italiano, attenzione, non grazie è a Dio, aggiungerei, cioè, beh, dipende, devo dire dipende, il mondo dei videogiochi ultimamente dipende, basta, e soprattutto il codice morse è soprattutto voglio capire, è certo, quello è un ulteriore livello, la nuova di colonna, puoi ascoltarlo con il doppiaggio morse, quello è il livello ultra difficile. Esatto. Tanto per quello che servono i dialoghi. Beh, secondo me è quel gioco che vogliono fare solo audio, che tu devi combattere, quello sì, no c'era, che quello con il non vedente che pian piano ti formi le immagini perché senti i suoni, com'è che si chiama? Ma sì, ce ne sono diversi di esperimenti, sì, del genere. Di questo tipo. Comunque Deb ci scrive che pure lei non c'ha pazienza e se svernerva, perché non si può fare ovviamente 300 volte lo stesso pezzo. Ma guarda, io al di là se uno non ha proprio veramente l'istinto per la super abilità, per esempio come Alawin, a lui piace proprio la iper sfida, cioè nel senso il gioco deve essere difficile. Io per me il gioco deve essere rilassante, e me deve raccontare anche qualcosa, insomma, tutto sommato. Guarda, può essere anche, cioè, a me non è tanto la difficoltà, è la ripetitività, perché tu poi sei portato a rifare tu di tua volontà determinati punti per prendere esperienza e far crescere il personaggio. E bene, ci ritrovi pure gli stessi nemici un'altra volta. Devi farmare. Infatti, è quello che dopo un po' ti rompe. Che qui, a seconda del dialetto in cui lo dici, potrebbe significare che devi fare male a qualcuno oppure devi fare il mare, capito? Cioè, quindi, infatti, quando tu telefoni a Marco, scendi e no, sto a farmare. Sto a farmare. Esatto. E vabbè, comunque, ragazzi, questo è il tema della puntata, di cui ovviamente non ce ne frega niente, ma è Mass Effect, giustamente. No, neanche. Assolutamente. Allora, Mass Effect, perché noi... hanno teaserato una nuova immagine che fanno capire che Mass Effect continua. Sì, sì. Non si sa come. Tra l'altro qualcuno dice ci hanno visto un get, chi ci ha visto una tetta, ad esempio, non so. A me la tetta ci sta. Io ho giocato a Dark Souls e lo adoro. Vabbè, Francesco, bravo. Poi Francesco ci scrive che non ci ascolta. Però ha giocato. Perché? Però ci ascolta. Non ci ascolta perché deve giocare a Dark Souls. Ah, giustamente. Deve essere questo. Tra l'altro, noi abbiamo anche l'audio dei giochi di Francesco che dura ben 6 minuti. Quindi, insomma, dopo preparatevi, mettetevi seduti comodi. Perché insomma c'è anche fatevi una camomilla. Che poi. Allora, indicativamente oggi è il. Insomma, inizia la il fine settimana nero, insomma, dove partono gli sconti in tantissimi store e in tantissimi contesti, ovviamente nello specifico parliamo del mondo dei videogiochi, E poi il punto di riferimento oramai è anche un po' Steam, no? Diciamoci la verità, insomma, perché alla fine, ma dai, sì. C'è anche Epic che si difende bene, no? Perché poi oggi mi ha scritto Carlo Santacostino in privato: Black Friday dei videogiochi, ma dove? Su Steam, ma lì non ci sono i Pokémon, quindi cioè, per lui basta, è finito. Il discorso finisce. Si è drogato di Pokémon. No, tu lo sai che la figlia di Santacostino è campionessa europea di Pokémon. Ah, grande, sono d'accordissimo con mia figlia. Esatto, quando... cioè, no, c'è il mazzulamento dei Pokémon. E quindi volevo sapere da voi: scontri clandestini tra animali, ricordiamo sempre. Beh, certo, sì, esatto. Clandestini soprattutto, poi dentro le palestre nascoste. Animali catturati e tenuti con la forza in cattività. In cattività dentro nuovo, poi. Dentro nuovo, mortale. Insomma, capito? Cioè, non è tanto una cosa bella. Ma anche se c'è una gabbietta, un po' si muove, no? Dentro nuovo, capito? Insomma. Bisognerebbe fare una sorta di comitato. Però ti faccio uscire fuori quando c'è da prendere botte. Perché è incazzato lì. Perché è incazzato. Esce, botte da muro. E pica pica. Vabbè, comunque, allora l'idea è quella, insomma, senza sapere cosa avete adesso in wish list e tutto quanto, a mente, a memoria, diciamo, se comunque oggi trovaste l'occasione di quel tipo di gioco, quale gioco comprereste e perché? Almeno un paio di giochi, dai. Marco, inizia tu. Allora, io ho messo nei miei sorveglianti di prezzo, ho messo Spider-Man e Miles Morales, così, ma che deve raggiungere un prezzo inferiore ai 20 euro, perché se no non me lo compro, cioè così, per PS4. Ma tu c'hai anche delle, insomma, sei pure esoso, eh? Io ho messo anche molto inferiore. Vabbè, ma PS4 è difficile. Ah, PS4, scusa, ok. E per PS4 una cosa meno sfizio, perché così, Ghost of Tsushima. Così, dicono che è un po', a parte, insomma, stilisticamente l'erba che si muove e tutto quanto, dicono che sia un po' un gioco di merda, dicono, perché io non, in realtà ho visto no. Poi narrativamente è povero, cioè, nel senso, non lo so, però invece ho visto delle persone che stavano invasate per questo posto Tsushima. Vabbè, perché sì, perché i samurai, capito, il Giappone, sì, poi... te devono piacere molto i samurai. Se sei fan di Kurosawa pare che sia il gioco definitivo, anche perché c'ha la modalità in bianco e nero dopo un po', quindi dopo un po', però no, devi fare un New Game Plus, però non mi ricordo. Ah, pure, cioè lo devi finire a livello ultra hardcore e poi ti danno la modalità. No, ultra hardcore, no, mi sa che lo devi comunque finire. Però non mi ricordo, cioè, c'è un achievement che devi prendere, che poi ti permette di prendere. Non lo so, io non capisco i termini che dice Puccio, sai, è troppo hardcore per me. Hardcore. Lui parla cose, parla linguaggi che... Parlo il giovane. Esatto, parli il giovane Morse. E Deborah ci scrive che mettono Mortal Shell, che dovrebbe essere tipo una sorta Mortal di... Mortal Shell lo di ce l'ho, sul Slack, sul Game Pass, sul Game Pass. L'ho provato, l'hai pure comprato? L'ho comprato, sì, ma per due spicci, praticamente, usufruendo di agevolazioni, sconti, sotto sconti e abbonamenti a Famiglia Cristiana. Comunque l'ho provato, dopo un po' mi sono rotto il cazzo. E vabbè, sempre il solito discorso, quindi, quello, ok. Ma comunque sul Game Pass ci sta veramente tanta roba. L'unica cosa è ancora non ho capito. Anche io il Game Pass, ma non c'ho PC. Game Pass, però, se tu fai. Allora c'era un link, dopo te lo ripasso. Ce l'ho. Dove si compra a spicci, 4 spicci, l'Ultimate, mese di Ultimate. C'ho 3 mesi di Ultimate. E quindi c'hai Cloud, c'hai. Sì, che però è un po' la merdina. No, io lo devo provare. Io lo devo provare. Praticamente ancora. Lo stream è dei giochi dei PS, di Xbox One, credo. Non so se adesso hanno parlato. No, ma che dici? Guardi, su, non sa. Guarda che poi Microsoft te denuncia. Da che cosa streamano? Pronto. No, dovrebbero essere te lo dovrebbero streamare dall'ultimo. Pronto, che c'è Gualdi? Mi sentite? Sì. Cioè, no, che io sappia, la sessione di gioco te la fanno sulla serie X e poi te la streamano. Cioè, con l'equivalente di una serie X. Ma 6 is the number of the beast. Io ho provato a giocare The New Order, l'ultimo Wolfenstein, però non Wolfenstein, cioè graficamente non mi sembrava proprio al massimissimissimissimissimo. Ho provato a giocare anche Batman. Te la calibra sulla tua connessione, che io sappia la qualità del gioco. Quindi dipende, cioè, non c'ho la mega fibra, però c'ho 80 mega. Allora, io devo dire, io ho provato Stadia con coso lì, come si chiama? Cyberpunk, e devo dire non mi sono trovato male per niente, devo dire. Ho provato invece quello di Nvidia, però era un gioco di merda, cioè nel senso era un giochettino abbastanza easy, e quindi non ho potuto tastare insomma la poweranza. Però il problema è che quello di Nvidia, se vuoi il ray tracing e cazzi e mazzi, devi fare l'abbonamento quello più costoso, insomma. €10 giustamente, anche da una parte, cioè dal loro punto di vista. Almeno giustamente devo giocare il gioco gratis, però, quindi tutto sommato se ce l'hai. Se ce l'hai, quindi non è gratis, ce l'hai il gioco, non è che ti hanno regalato niente. Però cioè, tu permetti, quindi tu, oltre aver comprato il gioco, ti paga pure l'abbonamento per giocarci. Cioè, non sei buono, tanto è uguale. Vabbè, comunque, detto questo, puoi anche non pagarla e giocare sul computer, non rompi i coglioni. Voglio provare quello di Microsoft, del pass di Microsoft, perché voglio sapere insomma come va la questione. Comunque, quindi allora, guardi, vai con ordine. Prima, Ghost of Tsushima, perché? Perché c'è stato di Samurai le spade, la gente che viene tagliata, è bellissimo. In realtà ho visto un pezzettino di gameplay all'inizio del gioco, a me è sembrato simpatico. Però è uno di quei giochi che non, lì per lì, non, sì, bello, ci sta, su PlayStation, sti cazzi, fondamentalmente. Però ho visto che è tutto. Attenzione, sommato. Attenzione, ti interrompo perché all'ultimo minuto, giustamente, Shuren ci dice che su Fanatical c'è Warhammer End Times Vermintide PC Steam Games gratis. Vado subito a prendere. Vai. Era quello che volevi proprio. Fanatical. Sì, volevi proprio. Guarda, cioè, se tu vai in diretta runtime c'è il link direttamente. Ma non vi dispiace ammazzare gli Skaven, poveri topolini? Io non so chi sono gli Skaven. No, assolutamente. Sono i ratti mannari di Warhammer. I Skatzen pure un pochino. Vabbè, sì. Diciamo che per Marco adesso questo è diventato il gioco che proprio voleva durante storia. Assolutamente. Sono la mia razza preferita a Blood Bowl, gli Skaven. Vabbè, allora partite pure. Blood Bowl che purtroppo non è uscito, quindi il 3, nonostante io mi aspettassi uscisse per dicembre, invece un cazzo, non si sa più quando. Tante cose non sono uscite, devo dire. Sì. Questi sono stati anni terribili. Quelli dopo saranno meglio, sicuramente. Non è che in questo momento storico mi sa che devo fare il login, vero? Giusto? Sì, e poi credo che ti chieda di registrarti o puoi usare il login di Google, se non mi sbaglio. Ma io ce l'avevo, ero loggato, ma non trovo il pulsante login. Qui c'è solo sign in. Signi, è quello lì, vai. Sì, signati. Cioè, loggati. Ok, vai, continua a parlare. Oppa, guardate, stavo dando, tra l'altro, mentre parlavamo, ho detto fatemi aprire Steam, fatemi vedere che cazzo sta, che mi sono arrivate 3000 mail oggi. Comunque, in realtà, no, questo gioco che vi sto per citare io non c'è stata tra le promozioni, ma per un motivo abbastanza semplice. Di suo costa €10 dall'uscita, ed è il gioco che hanno fatto i ragazzi di Hello Games. Quelli a me fa ride quando voi tutti in generale, tutti, non te, tutti i ragazzi di, ma i ragazzi di chi cazzo te conosce? Ma c'hanno 50 anni. Scusa, perché i ragazzi dei, è una cosa, è un retaggio di The Games Machine. Sì, può essere. Che si immaginavano tutti, i ragazzi della Lucas hanno, ma che ragazzi, c'avevano 90 anni, c'avevano. Vai, prego, scusa. Comunque, dicevo, perché il problema è questo. Sean Murray, quando è uscito No Man's Sky, diciamo, per qualche mese non si è passata benissimo psicologicamente, per motivi che penso ci ricordiamo più o meno tutti quanti. Ma è anche perché è brutto tenersi dei ninja dentro casa che pronti a sgozzarti da un momento. Esatto, cioè, da vivere nel costante terrore che c'è un giapponese che ti stia per eviscerà. Sconto del 100%, bene. Vai, prego. Appunto. Quindi lui, forte di questo trauma che ha vissuto, hanno deciso di far uscire questo giochino, che in realtà è un puzzle game ambientale, con tutto questo sottotesto molto profondo sulla depressione, le speranze, il percorso di automiglioramento che tutti noi affrontiamo nel corso della vita, anche se a me mi pare che sono peggiorato più che migliorato negli ultimi anni. Insomma, risolvendo questo puzzle, si sbloccano queste serie di puzzle, si sviluppa una trama che parla appunto del percorso spirituale delle persone, c'è tutta una una parte sottintesa, ma neanche più di tanto, in cui è evidente che Sean Murray ci ha fatto terapia con questo gioco, perché parla di speranze disattese, di gente che disputa addosso se non riesce a fare le cose che avevi promesso come loro se l'erano immaginate, eccetera eccetera eccetera. Al di là del fatto che tutti quanti vogliamo bene Hello Games, perché poi si sono messi a 90 gradi, hanno rifatto No Man's Sky da zero, rendendolo il gioco bello, e diciamolo, beh, che sì, Marco lo sta giocando, infatti. Sì. Io ho il cuore spezzato, non ce la faccio. Ci provo. Ma secondo me se ci giochi guarisci. Quello probabilmente. È molto probabile. Comunque stavo dicendo, calcolando che proprio l'ha messo su Steam a un prezzo assolutamente ridicolo, cioè sta a 10 euro dall'uscita, è comunque un gioco con le texture in 4K, comunque molto curato dal punto di vista grafico. Io ve lo consiglio, penso che non scenderà di prezzo e non lo metteranno in nessuna offerta, però oh cazzo, costa 10 euro, si spende molto di più per roba molto peggiore, e comunque è bello, fa un po' riflettere, anche se siete aridi come la merda, secondo me un paio di dialoghi che ci sono potrebbero risvegliare anche nei cuori di pietra dei sentimenti. Molto bello. Bello, io non ho capito che gioco è, però va bene. Si chiama The Last Campfire. Ah, sì, mi interessava anche a me. Vero. Ma interessa di più e piglialo, perché è. Quanto costa? €10. €10. Allora, Fanatical mi chiede assolutamente l'accesso a Steam. E questo è una rottura di coglioni, perché Steam rompe tantissimo il cazzo. Quindi. No, quale messaggio? Dice mi ha mandato un messaggio, però gli posso dire quale messaggio? Adesso controllo se mi ha mandato un messaggio. Poi... A me non ha mandato un messaggio. Che cos'è un messaggio? Cos'è un messaggio? Mi è arrivato un messaggio? No, non mi pare neanche, quindi. Vabbè. Oh sì, vabbè, dai, continuate. Vabbè, compratevi della Scanfire. Ok. Invece, vabbè, tu hai detto Ghost of Tsushima, ma non mi ricordo il primo, però. Spider-Man Miles Morales. Ah, ma ti piace quello? Ti piace Spider-Man? Ma è bello. Io non lo so. Spider-Man, ragazzi, rotto il cazzo. Spider-Man, non è rotto il cazzo. Ma pure il film nuovo. Non voglio essere, volgare, però Spider-Man è proprio rotto il cazzo. Ragazzi, mi dicono. Cazzo, mi dicono dalla regia che potete trovare su Steam Death Stranding a €17,99. Ecco. Quello non è nella mia wishlist nel modo più assoluto, e continua a non esserlo, però. Però immagino che per gli appassionati. Perché tu odi i giapponesi, diciamo. Diciamo che non. In particolare Kojima. Kojima, ecco. Kojima. Ma io Kojima non lo... che sta. Kojima che sta droppando delle immagini su Instagram in cui ci sono chiari riferimenti a Metal Gear. Ma vabbè, vedremo. Sono due o tre giorni. A me comunque l'ultimo messaggio che mi è arrivato sul cellulare è da Regione Lazio per il vaccino. Quindi... È quello, inserisci in medaglia. Inserisco questo, allora ti inoculano direttamente nel braccio quando vai a fare. Vengono quelli di Warhammer a inocularti la terza dose. Vabbè, io non lo so, raga. A me Steam mi sta troppo sul cazzo questa cosa, quindi non mi comprerò questo gioco. Peccato, perché in abbinamento al gioco c'era anche una Mystery Bundle Game. Devi pagare bene €1,99 e ho detto no. No, io lo pagavo volentieri, perché poi magari sono giochi di merda. Regalavamo le key in giro, insomma, le key. Le gay, anzi, a un certo punto. Ragazzi, io ho dei problemi di pronuncia, ma secondo me prima o poi verrà qualche inglese ad arrestarci. Lo dico. Verrà il dottor Who in persona ad arrestarci, se continuiamo così. C'è Deborah che dice che lei voleva quello nuovo di Agatha Christie, ma hanno messo solo il 20% di sconto. Beh, se sono nuovi. Benvenuta nel club. Pure io volevo Type Final 2. Anzi, linkamelo, perché non ci ho presente adesso qual è. Gentilmente, Deborah, se ti va. Sì, allora, c'è tutta una categoria di giochi gialli con Sherlock Holmes, i personaggi di Agatha Christie. A me piacciono. Io, per esempio, quello di ABC Murder World Blues, mi ricordo come si chiama, l'ho trovato carino. Ma in generale, a me i giochi di Sherlock Holmes sono giocati tutti, quindi. Sia le avventure grafiche e quelle un po' più dinamiche, diciamo così. E io invece il gioco che l'ha citato prima, e dato che insomma ne parliamo da inizio puntata, in effetti avrei colto l'occasione per prendermi la Legendary Edition dei Mass Effect, devo dire la verità. Ma poi si è risolta quella cosa del DLC scomparso. Esatto, ma tipo dopo una settimana l'avevano ributtato dentro dall'uscita. È stata rapida. Ecco, quello me lo rigiocherei da capo, magari con. Poi non so se perché non ho visto i video, però al di là del restyling, quindi della rimasterizzazione, tutta la parte grafica, se il primo ad esempio l'hanno modificato come gioco, sì, immaginavo, insomma, se vuoi saperlo, sì, sì, sì. Anzi, no, ma immagino è quello che ha avuto più attenzioni da quel punto di vista. Beh, certo, cioè, guarda, è uno perché, a quel punto, insomma, ci sta anche, cioè, nel senso, cioè, per rendere più omogeneità tra il primo, che era completamente diverso dai secondi due, perché il primo era più vecchio gioco di ruolo BioWare, no? Insomma, ricordava, sì, più Kotor da un certo punto di vista. Si vai, parla, spara qua, ma ogni tanto, cioè era abbastanza, sì, tra, sì, l'altro, sì, poi non era proprio pensato per essere giocato con la tastiera, probabilmente il primo all'inizio, quindi hanno dovuto fare tutto un lavoro sui comandi che non... Vabbè, che era il terzo, quello non si poteva rinfodere l'arma, lo ricordi? Terzo, sì. No, che te la tirava fuori da solo, in pratica, che ma no, manco la potevi tirare fuori, cioè, sì, sì, in giro questa arma, così, che veramente, cioè, stiamo pensando. Vabbè, se vivi in Texas è normale, cazzo, i problemi. C'è Francesco, che continua a non ascoltarci e dice sul fatto di Agatha Christie. Vabbè, fa una battuta che la lasciamo perdere, non la ripetiamo. Ah, Hercule Poirot, non mi viene mai, ragazzi. Poirot. E non è francese, è belga, te devi sforzare. Vabbè, però è sempre francese, insomma. Hercule Poirot. Che tra l'altro io ho visto il film recentemente, tipo un paio d'anni fa. 35 film che hanno. È lui, cioè, insomma, è tipo 3000. Adesso glielo stanno facendo fare a Kenneth Branagh, che è un po' una cazzata in mano, perché nei romanzi Poirot è brutto, cioè proprio se lo dice da solo, che ha la testa a forma di uovo, è pallido, grasso, e nei film invece gli fanno fare Kenneth Branagh, assassino sull'Orient Express. Lo so, ma questo è colpa dei cinesi, ricordate sempre che è colpa dei cinesi. E mica c'ha gli occhi a mandorla, cioè non è che ci hanno ficcato il personaggio Asian. Allora io mi ascolterei a questo punto, volendo, i 6 minuti di Francesco, così vediamo che spunti c'è da lui. Voi nel mentre recapitate un altro giochino, magari, che proprio vi piace, che non vedete l'ora. Ce ne ho due, okay, che proprio secondo, okay, me. Intanto ci sentiamo prima Francesco e buon ascolto. Allora, carissimi ascoltatori e partecipanti a questa trasmissione del Redivivo Ludico Forum, che volevamo far morire, in realtà è vivo e vegeto ed è qui per raccontarcela. Volevo tanto partecipare stasera, però c'ho un po' da fa. Per l'occasione sto pure fuori casa, quindi sto registrando mentre sto ancora in casa. Vabbè, questo non so cazzi cosa. Andiamo alla ciccia. Giochi per Black Friday, Black Week. A parte che per me è una cagata sta cosa. Non ho mai comprato niente di niente proprio durante queste giornate, perché tutti questi biechi trucchi di marketing che vanno a sfruttare le debolezze della nostra mente per propinarci roba che non venderebbero in altre periodi dell'anno, con dei prezzi falsati, però eccetera eccetera, puttana. Però Steam fa gli sconti che li fa tutto l'anno fondamentalmente, in vari periodi, non solo Steam, anche GOG e altri. Vabbè, andiamo ai giochi, che già mi sto dilungando troppo. Vi dico un gioco che ho giocato, che suggerisco, che sicuramente sarà in offerta, un gioco che sto giocando e un gioco che giocherò, piacerebbe giocarci in un modo o nell'altro. Allora, gioco giocato, Death Trash è un gioco indie in pixel art, un gioco di ruolo che è molto ispirato a Fallout. Infatti dall'ambientazione, cioè, è ambientato in un pianeta post apocalittico tutto desertico, ma con degli elementi strani, bizzarri, ma proprio fuori di testa. Infatti, cioè, è come se fosse Fallout scritto da Douglas Adams, per come è scritto, perché è molto ironico, molto humor nero. Praticamente c'è tutto sto pianeta pieno di esseri di carne che spunta ovunque. E si gioca, cioè, molto, molto interpretativo, cioè, nel senso, dà molto peso anche non solo alle skill combattivi, anche il combattimento è molto divertente, molto alla Hotline Miami, cioè devi puntare, sparare, buttare la terra, c'è molto action, una sorta di Fallout molto più action, però che ha delle potenzialità interpretative molto vaste, è da una pixel art molto davvero spartana, però c'è il suo stile, è davvero un gran bel gioco da non sottovalutare, e soprattutto la traduzione in italiano non ufficiale, quindi scaricabile però da Steam, mi ricordo come si chiama il servizio, l'ho curata io insieme ad altri, c'è un bel 20% di battute le ho tradotte io, quindi se non capite come in italiano bestemmiatemi pure. Invece che sto giocando, ho iniziato da poco sfruttando il mese gratis di come cavolo si chiama là, di xCloud, sto giocando a Psychonauts 2, che lo aspettavo da un bel po', infatti ammetto di essere stato backer all'epoca, seppure tutti quanti che dicevano tipo Schaefer stronza ha fatto quella stronzata con l'avventura grafica, però comunque si è comportato bene a sto giro, ha imparato dai suoi errori, infatti finora mi sta piacendo, sto forse al primo livello, l'ho iniziato ieri appunto, ed è un gioco che ritengo molto valido. Io sono un fan non della prima ora, però comunque ho riscoperto tardi il primo capitolo, mi piacque tantissimo, e poi anche in tema con quello di cui mi occupo nella vita vera, quindi platform 3D, collezioni cose, entri nel cervello della gente e vedi cose fuori di testa. Ron, sta diventando all'infinito sto coso. Parpeggi Alex che dice: ah, volevo dire una cosa di 3 secondi. Ah, ho fatto un podcast di 3 ore. Vabbè. Quindi non lo criticherò più su queste cose, ma non l'ho mai criticato in realtà. E poi terza cosa, gioco che voglio giocare da quando è uscito praticamente Disco Elysium, che mo è uscita pure una versione Director's Cut, cazzo e mazzo che roba è, eppure sto gioco di ruolo molto interpretativo, in cui praticamente non ci sono combattimenti ma è molto orientato sull'introspezione, diavolo, eppure questo un mondo fuori da sé, molto molto fuori, molto strano, in cui praticamente ci sono le varie abilità barra entità, diciamo il protagonista che è un detective sfessato, embriacone, e non solo lui, anche tutte le sue abilità sono come delle entità asse con cui si può interagire e che interagiscono tra di loro, e ripeto, è molto narrativo, molto interpretativo, in cui anche il fallimento, cioè come deve essere un gioco di ruolo vero, perché spesso i giochi di ruolo i videogiochi di ruolo spesso hanno sto problema tra virgolette che o fai una cosa che ti porta alla vittoria oppure niente, game over, magari ricarica la partita, rifai da capo. Invece riprende molto dei giochi di ruolo cartacei che si fanno, che se un fallimento va a far parte della narrazione e quindi si va avanti nonostante quella cazzata che hai fatto, che magari può darsi che è una cazzata, ma chi l'ha detto che è necessariamente un fallimento, una cosa come la vita d'altronde. E con studio chilometrico non so se Pizzi lo metterà tutto, ma ah no, è solo 5-6 minuti, che cazzo ce lo mandiamo, buona serata e buon tutto. Va bene, allora, io non ho capito il primo gioco, devo dire la verità, cioè me lo so perso. Me lo so dimenticato. Esatto, me lo so The perso. Trash, poi forse. Psychonauts 2, no, vabbè, non mi interessa proprio minimamente. E vabbè, Disco Elysium, devo dire la verità, sì, però c'è questo problema della immasticabilità dell'inglese molto, molto articolato. C'ha miliardi di righe di testo quel gioco. No, ma al di là dei miliardi di righe, perché quello si sa che era così il gioco, il problema è che è comunque un linguaggio molto molto approfondito, cioè devi conoscere comunque l'inglese in maniera abbastanza approfondita, e sinceramente infatti con Francesco si eravamo organizzati tipo vabbè lo giochiamo insieme un po' per volta, però vabbè sarebbe stato un po' complicato, devo dire la verità, e sappiamo che non verrà mai tradotto in italiano in modo più assoluto, quindi Francesco, è abbastanza improbabile. Invece di tradurre il 20% del testo di quel gioco di cui abbiamo già dimenticato, il 2%, potevi fare un 2% di Disco Elysium, almeno l'introduzione, se giocavamo quella, insomma. Bene. Allora, ragazzi, sono riuscito a entrare su Steam e il mio ordine è stato processato. A questo punto, giusto per trovato colpevole. Giusto per curiosità, io ho 2 bundle misteriosi. Tra l'altro ce n'avevo già uno, manco lo sapevo. Bene. Allora, reveal key. Cioè, che vuol dire? Io praticamente metto questa key su Steam e mi dà un bundle? No, come no, te dovrebbe dire che c'è dentro, suppongo. Ah, perché è un join. Io pensavo che era un bundle, nel senso c'era diversa roba. Aspettate, mo vi dico. Ah, e quindi niente, se lo faccio non posso regalarlo poi, giustamente. Vabbè, vediamo che cosa, così per curiosità, giusto che siamo un po' in diretta, così vediamo che cosa ho guadagnato con un euro e passa. Attiva il prodotto. Ok, vai avanti. Scusate, questa rullo di tamburi. Questa è un'emozione, magari me. Deve essere Mass Effect, la Legendary Edition. Esatto. Come no? Come no? È proprio quello che succede di solito. Pa, pa, pa, pam, pam, pam, pam, allora, pam. Il prodotto è Porcunipine. Beh, già già provette tanto, insomma. Aspettate, perché voglio vederlo assolutamente. Il nome è tutto un programma, ragazzi. Aspetta, perché il nome non mi è ignoto, devo dire la verità. Forse Porcupine. Porcunipine. Porcunipine. Porcunipine. Aspetta, che mo sono andato a vedere subito. Intanto installalo. Installalo. Stampa ricevuta. Ok. Allora, aspettate che lo vado a cercare, che deve essere un gioco bellissimo. Non possiamo. Non... Niente, si è bloccato il tema, quindi va bene. E, vabbè, comunque la mia seconda scelta sarebbe stata sì, The Last Campfire mi interessava, devo dire la verità, e l'ultimo della serie Amnesia, che però non mi ricordo come si chiama, Machine for Pigs, che no proprio l'ultimo che è uscito, perché è molto molto narrativo, è bello, cioè nel senso forse si distacca molto dai precedenti, insomma, in qualche maniera, anche se poi ovviamente Riberto però è sì, bravo, esatto, che lei è anche incinta, quindi c'è questo spoiler, come avevo detto. Marco aspettate. Beh, Simone, sta a meno 60%, sta a 10 euro. Si potrebbe quasi fare, Vabbè, io sto gioco non lo trovo, ragazzi. Quindi non so neanche che gioco ho preso. E se me lo potevano anche far installare direttamente. A questo punto riscatto anche il secondo, dato che ci sto. Perché, insomma, so quelle cose bellissime. Ottenere giochi così a casaccio in diretta è sempre una cosa. È una specie di unboxing, ma digitale. Esatto, esatto. Avremmo potuto farlo, che ne so, in video questa cosa. Ok. Nvidia soprattutto, sì. No, me lo fa installare quello là di prima. Solo che mi sarà nascosta alla fine. Quindi lo sto installando, quindi dopo vi dico. Almeno il genere del gioco ve lo dico. Il genere è schifo. E andiamo avanti, aggiorniamo e sfoglia giochi, attiva un prodotto su Steam sempre, tac tac. Scusate, ragazzi, purtroppo io oramai ho la mia lentezza e sto mettendo il secondo, che si chiama Dead in Bermuda. Vabbè, cioè muori in Bermuda, capito? Cioè, morte in Bermuda. E se c'hai le Bermuda, sì, allora muori. Puoi morire tranquillamente. Termina, vediamo, installiamo anche questo e vediamo, insomma, di che cosa si tratta. Tutto per quanti soldi? Tutto per 2 euro. Ah, vabbè. Quindi due giochi per 2 euro. Poi adesso ti vado anche a vedere quanto costa questa roba. Perché, insomma, in Bermuda, secondo me, costa tantissimo. 50 centesimi. Invece, un gioco che avrei voluto comprare adesso, nel senso che c'erano c'erano gli sconti. Poi non so se avrebbe partecipato agli sconti. Ma che in fissa con Arcane ho comprato è praticamente Ruined King a League of Legends Story, che è praticamente, non so se c'è presente Puccio, è un gioco single player, non è solo single player, è praticamente un gioco di quelli a turni, fondamentalmente con combattimenti a turni con i personaggi e gli eroi di League of Legends, dove ovviamente c'è una buona parte incentrata sulla storia, quindi c'è tutta una narrazione. Tra l'altro, quando l'ho comprato, perché oramai mi ero inscimmiato e mi ero dimenticato dopo che c'era, poi alla fine ci sarebbe stato il cartone. L'ho comprato in conseguenza al cartone, dico, ah, vedi, oh, questo è, ma vedi poi quanto funziona un'operazione commerciale, no? e me lo sono preso praticamente non aspettando il fatto degli sconti Steam, perché poi ho detto vabbè, ma che me ne frega, cioè me lo compro, poi dopo ho pensato, ah ma cazzo, ci stanno gli sconti Steam. Tra l'altro questo prodotto è fatto dagli stessi autori di Battle Chasers, che tu conosci, Puccio? Un pochino, sì. Ok, allora, che poi tra l'altro sia lo stile di gioco, praticamente il gioco è identico, cioè l'engine del gioco è lo stesso, soltanto con personaggi diversi, sia il fatto che entrambi i giochi sono doppiati in italiano con i combattimenti a turni e tutto quanto, e lo stile, insomma, alla fine, cioè, i giochi sono praticamente identici, insomma, però mi sta piacendo, è carino, non è niente trascendentale, e se l'avessi comprato adesso con gli sconti l'avrei trovato con lo sconto del niente, quindi hai visto, ho fatto bene, hai fatto bene, ho fatto benissimo comunque a comprarmi, insomma, quindi questa è una cosa. Poi invece porco nipine, andiamo alla andiamo alla pagina del negozio, che un attimo, mi viene dato come indie azione locale a 4 giocatori co-op locale. La descrizione è a party game, arena fighter web, no vabbè, ok, questo bello, pure col full motion video, bella zozzeria. E invece quell'altro, come avevamo detto, come si chiamava quell'altro, aspettate, Death in Bermuda, eccolo qua, mamma mia ragazzi, mia. Te credo che sta, cioè, che poi è una presa per culo sti cose, un questo, gioco ambientato sulle spiagge. Questo invece è sopravvivenza, attenzione, questo vi potrebbe piacere a Gualdi, simulazione, strategia, indie. Beh, allora, Dead in Bermuda is a survival management game with RPG and adventure elements, quindi è, c'è tutto, cioè sopravvivenza, gioco del ruolo, avventura grafica, e questo qua, e c'è anche l'italiano. Incredibile, no, non c'è l'italiano, quindi questo insomma deve essere un po' bello. Invece un gioco che io vi consiglio a tutti quanti è Neocab, questo lo consiglio anche a Deb, perché Neocab è una sorta di avventura grafica, una via di mezzo tra una visual novel e un'avventura grafica, forse più indirizzato verso la visual novel, in questa ambientazione totalmente cyberpunk, dove tu sei tra virgolette una sorta di come si chiama quelli là che tassista, sì, quelli che bloccano la strada, però non proprio tassista, Uber, più Uber. È Uber, bravo, ecco, è una sorta di Uber praticamente. Io oggi non si può dire, perché se dici Uber viene il tassista sotto casa. Bene. Esatto, è una sorta di Uber, cioè dove c'è tutta una storia, tutta una trama, anche questo in italiano, carino, con una grafica 3D abbastanza semplice, in cel shading, quindi insomma è una cosa abbastanza piacevole, ve lo consiglio perché è una cosa assolutamente carina. Vediamo se Puccio e Marco hanno un altro gioco, perché dopo questa cosa voglio fare un esperimento con voi in diretta sociale. Vai Puccio. Esperimento sociale, tipo Squid Game, facciamo una roba del genere. Allora, cambiamo un attimo store di riferimento, andiamo sulla shop di Nintendo. Ci hanno messo il mondo tipo in sconto in questi giorni, e gli sconti dureranno fino alla fine del mese. Se volete recuperare roba, insomma, che ha fatto un po' la storia della Switch, tipo i vari Zelda, i vari nuovi Mario, il Mario Kart, ci hanno un certo sconto, non gigantesco. Io però non ho approfittato di questo, ho preso un gioco che ci ho dovuto riflettere un attimo. Allora, a me piacciono gli shoot 'em up, quelli in a scorrimento orizzontale, ok? Quelli giapponesi. Infatti ero lì per comprarmi il nuovo R-Type, ma costa un pozzo di soldi. Ho notato che era uscito su Switch il reboot di Cotton, che è uno sparatutto giapponese abbastanza conosciuto tra gli appassionati, e rientra nel genere quelli che chiamano cute em up, cioè invece che avere le astronavi Godzilla e roba simile, hanno in questo caso la maghetta con la fatina che cavalca una scopa e spara ai mostriciattoli carini. Non è noto per essere uno di quelli particolarmente difficili Cotton, però è sempre stato molto bello graficamente, sempre stato molto particolare. Questa nuova versione per Switch è praticamente il remake del gioco originale che uscì per l'X8006, che era un PC che praticamente esisteva solo in Asia, in Giappone, rifatto con la grafica per lo Switch, anche se poi c'è l'opzione per giocarlo nella versione originale. Stava di listino $39.90, quindi un pozzo di soldi. Lo hanno ribassato fino a $29, che secondo me è il prezzo giusto. Se vi piacciono gli shoot 'em up, cioè avete la Switch, è fantastico. Graficamente è proprio colorato, bello da vedere, ti rilassa. Non è particolarmente difficile, quindi non c'è tutto quanto il che vi devo dire il problema dei Ballettel. Insomma, aiuta a passare il tempo, si gioca tranquillo in mobilità, non c'è bisogno che ci giocate docked come altri tipi di gioco, si gioca tranquillamente con i Joy-Con senza nessun tipo di problema. Insomma, per 29 euro tu lo sai, Marco, che cos'è giocare docked, no? E come no? Beh, le spiega. E quando tu sei attraccato ok, vabbè, perché giochi attraccato, perché ho detto che Puccio parla videogiochese praticamente con la Switch attaccata al televisore. Ok, bene bene. Allora ragazzi, a questo punto, no, Marco, tu ce n'hai un altro? Io ce l'avrei uno. Io c'ho Fallout 4, mi piacerebbe comprarlo. No, ce l'avevo sulla PlayStation. Ah, vabbè, poi l'ho venduta la PlayStation, c'è tipo a 12 euro trovi completo, ma anche su Kinguin secondo me trovi pure a di meno. Sì, secondo me te lo regalano. Secondo me lo trovo su Game Pass. Comunque può, no, io si può dire Kinguin, no? Cioè, quindi, cioè non è legale. Anche G2A puoi dire. Ci sarebbe un gioco che in realtà l'ho trovato a una Collectors, che comprende anche i DLC, che arrivavamo a sui 30 euro. Ho trovato. Che è tanto, è tantino pizzi, 30 euro. Tantino. Non sono due spicci, sono due sottini. Che sarebbe X3 Foundation o X4? X4 Puccio, che è X4 o X4? X4 dovrebbe essere X4, cioè l'ultimo X uscito, che mi intriga tanto perché io col 3 mi c'ero un trippato in una maniera con quello precedente, no, forse con due precedenti prima, quello dove c'era Terran Conflict e bla bla bla bla bla, mi c'ero infognato tantissimo. Poi dopo un po' ovviamente te devi rompere il cazzo, è normale, ma perché comunque c'erano delle situazioni gestite da mod amatoriali che erano state inserite ufficialmente nel gioco, che però dovevi essere ultra nerd con livello 10.000 per riuscire a farlo fico, per riuscire a farlo funzionare. E quindi un po' mi ero rotto. Dovevi essere dichiaratamente vergine, non aver mai visto una donna del genere. Ma per far funzionare determinate mod, perché c'erano queste mod che espandevano il gioco, che però non essendo erano state ufficializzati, ma non erano proprio ufficiali, per cui non, cioè, avevano un livello di manualità un po' troppo, diciamo, fuori standard per me, e quindi mi ero rotto il cazzo. Però qui praticamente sembra che il gioco sia più, cioè, più, diciamo, aperto, più grosso di suo, e quindi a parte i problemi tecnici di performance, che ovviamente poi comunque un gioco di un po' di tempo fa, non è proprio nuovissimo, sono stati risolti. Ed è un gioco che dovrei giocare con GeForce Now, perché ovviamente sulla mia 760 poverella, che non girerebbe mai, quindi comunque potrei affrontarlo anche su 760, però non lo so, c'ho dei dubbi, c'ho ancora dei dubbi, non so convintissimo, perché non è grosso, cioè è un gioco di gestione, è un gioco di sparare, è un gioco di astronave, ma anche un gioco di gestione. E più cresci, più fai soldi, più si ingigantisce la gestione, perché dalla nave poi cominci ad avere la flotta e poi cominci ad avere l'impero, un altro po' commerciale, e insomma è impegno l'impero tanto. un altro po' commerciale il livello finale degli imperi, no? Come esatto, è tipo il Commodoro prima di diventare ammiraglio, poi diventi Pomodoro. Esatto. Vabbè, no, niente, vabbè, bel gioco, se può fare. Non so se è troppo impegnativo e mi rompo il cazzo. Sicuramente è troppo impegnativo, però tu tante volte dici in trippi con sta roba. Ma io sì, infatti. Non so se per 30 fin euro. Infatti, con 30 euro non lo so se mi ci pippo. Diciamo. No, 30 euro sono tanti. Sono tanti. Allora, facciamo questo esperimento. Aprite Steam. Apriamo Steam. Andate nella vostra lista desideri. Oddio, ho già paura. Attenzione. Io non so dove uno. Dopo che siete andati nella vostra lista desideri, ce l'hai la lista desideri? Negozio? No. Devi andare sul negozio, lista desideri. Sopra la lista desideri. Okay. Nella lista desideri sono le opzioni dei filtri, mettete l'ordine dal prezzo più basso. Ok? dal prezzo più basso. Ok, aspetta un attimo. Sì, dovrei aver fatto. Intanto vi dico qual è il mio prendiamo i primi tre. Intanto vi dico qual è il mio primo prezzo più basso. Si chiama Reversion The Meeting capitolo secondo, perché poi sarebbe cioè, il primo capitolo era gratis. Il secondo capitolo sta al 90% di sconto a 0,49 centesimi ed è un'avventura grafica. Adesso vi leggo la descrizione, che secondo me è fatta con Google Translate, cioè nel senso: sei fuggito dall'ospedale sorvegliato. Dove eri? Sei fuggito dall'ospedale sorvegliato. Dove eri prigioniero? Okay. Per trovare Buenos Aires, quindi argentino questo, in rovina. I ricordi mancano ancora, cioè è proprio scritto: devi risolvere i puzzle e raccogliere indizi per poter trovare lo sconosciuto misterioso che potrebbe sapere la verità su ciò che è successo 20 anni fa. Quindi tu sei stato sorvegliato dentro l'ospedale per 20 anni. Mi puzza sta cosa. Forse ospedale, forse è carcere magari. Chi sa in argentino come si dice? O forse in argentino il carcere è l'ospedale sorvegliato. Ti fanno l'occhietto mentre lo dico, ospedale sorvegliato. Sono cazzito. Insomma, questa è l'avventura grafica che sembra carina, devo dire. 0,49 centesimi. Non so quanto ne vale la pena. Puccio, qual è il tuo primo? Il mio primo è Below, che è un gioco su cui avevo riposto molte speranze al momento dell'uscita, ma che insomma non è andata benissimo. In pratica ebbe anche parecchia pubblicità come titolo indie. Tu sei un mini personaggio che arriva con una barchetta su un'isola deserta e te la devi cavare, cioè devi esplorare l'isola, che tra l'altro è sempre diversa ogni volta che ricominci il gioco, quindi è procedurale, e ti devi gestire le risorse, che banalmente sono le torce, perché è tutto buio, e devi trovare altra roba tipo cibo, roba per curarti, devi sbloccare i punti di salvataggio. In questo momento sta 4,39 euro, potrei farci un pensierino, però sarebbe l'ennesimo gioco. Ma sei caro, io c'ho poca roba molto. Vedi, questo è l'ennesimo gioco che mi comprerei, ci giocherei 20 minuti tipo, mi cagherei il cazzo terribilmente. Però per 4 euro, no? Però magari, no, sai che cos'è? Che esteticamente sembra anche molto bello da vedere come ambientazione, che ti dico. Però boh, no, mi sa che pure a sto giro passo. Magari lo metto nel Game Pass. Questo è il tipico prodotto che finisce prima o poi in del posto. Gualdi, qual è il tuo primo? Non ci crederete, ma il primo gioco è We Happy Few. Ah beh, quanto costa? Sta a 5,96 euro. Ah beh, oh, quello vale la pena per quello. Ci sta, 6 euro potrebbe, euro, quasi se fossi in te lo chiapperebbi. Potrebbe anche essere che lo prendo, non lo so, vediamo. Comunque We Happy Few esce dal pass, quindi Stava nel Game Pass, ma mi sa che l'hanno tolto, quindi no, tanto io prima o poi non lo pagherò più, quindi anzi sicuramente non lo pago più. We Happy Few, insomma, è la storia di questo tizio che si droga in un mondo di gente che si droga. A un certo punto smette di drogarsi, forse una sorta di inglese in Inghilterra un po' distopica, esatto, un po' cyberpunk. Smette di drogarsi e scopre che il mondo è una merda, sì, cioè praticamente la vita di tutti i giorni. Quindi sì, è un po', cioè, diciamo, non come opera non è originalissima, però è figo il gioco. Sì, e deve sopravvivere in mezzo a dei drogati, cioè bellissimo. Il mio secondo è come vivere in un quartiere periferico, sì, di Bari. Anche vabbè, di Roma. Interessante. Io questo potrebbe, per chi piace, secondo me lo suggerisco. Cioè, lo mettiamo come vivere a Foggia. È un po' anche sì. Io invece ho il mio secondo posto al prezzo smodato e secondo me ingestibile, il 90% di sconto a 0,56 centesimi. È un boato. È un'altra avventura grafica che viene definita indie, avventura protagonista femminile. È importante specificarlo questo, perché se no, cioè, dicevo, no, è femmina, non c'è gioco. E gotici. Prendete la descrizione in inglese, ma ve lo... Godici o gotici? Godici. Godici. Gotici. No, okay. Allora, Bella Donna è un'avventura, diciamo, è un'attrice porno. È un'avventura grafica gotica e molto oscura. Tu prendi il ruolo del corpo, cioè di una ragazza il cui corpo morto in un laboratorio risorge, e devi praticamente capire perché, che cosa è successo a Lovecraft piace questa nell'ambito della... Beh, però è figo, cioè tu te ti svegli, ridesti dalla morte in un laboratorio. Deve essere, insomma, tutto sommato interessante. Puccio, il tuo secondo. Comunque, questa è un'avventura grafica che c'ha una recensione nella media, però se ne parlò molto bene a suo tempo, quando prima che doveva uscire, insomma, se ne parlava molto. Poi dopo non so, evidentemente le cose non sono andate come dovevano andare. Ah, il mio secondo, cazzo, questo così quasi me lo compro. Il secondo era Foreclosed, che è un po' una visual novel, un po' un'avventura grafica. Tra l'altro credo che ci siano degli italiani. Cosa? Come si chiama? Foreclosed. Foreclosed. For numero oppure for? Foreclosed. Foreclosed. In pratica mi ricordo che c'era questa trama, è ambientato in un mondo cyberpunk in cui sei il dipendente di un'azienda che praticamente detiene tipo i tuoi ricordi, la tua memoria, la tua personalità. L'azienda fallisce, viene inglobata da un'altra, che però non sembra avere molto interesse nel permettere che tu mantenga i tuoi ricordi nel tuo cervello, quindi ti dovresti svegliare tipo con la memoria parzialmente azzerata. E poi credo che la trama vada verso la rivolta sociale del tipo che vai a prendere a calci nel culo i dirigenti della mega azienda. Beh, un po' ha uno stile molto fumettistico, infatti alcuni passaggi sono gestiti proprio come pagine che si sfogliano, o i cambi di immagine o i cambi di visuale nelle vignette dei fumetti. Questo qua quasi quasi me lo piglio, visto che mi sono ricordato. Basti, che compriamo giochi a smavo, insomma. Waldi? 5 euro. Allora, il mio secondo posto invece è Fade to Silence. Bello, il titolo mi piace. Ma non te ne sei convinto, però. No, Fade to Silence della THQ Nordic. L'ho sentito. Perché Fade to Silence, leggo, è un'avventura survival per giocatore singolo e modalità cooperativa ambientata nell'inverno senza fine di un mondo post-apocalittico. Ah, sì, ho capito qual è. Sì. Anzi, lo dico come Stefano Accorsi nella pubblicità della macchina. Neve e ghiaccio hanno plasmato un paesaggio spietato. La zeppola. La natura è corrotta e creature mostruose. Pensavo come nella creature mostruose. Da incubo vagano per le distese gelate. Bella pure la voce tremante da vecchio. Esatto, okay. Corsa. Comunque è un gioco che ho provato in una versione molto, molto vecchia. È simpatico, però purtroppo il mio PC non lo giro tantissimo. È un survival classico dove devi gaterare, devi veramente raccogliere. Gaterare, dove devi veramente raccogliere risorse, andare a esplorare case vuote, abbandonate, salvare sopravvissuti che si uniscono alla tua fazione, poi entrano dentro al tuo villaggio, ti costruisci un villaggio, pure quello che ho capito. Non so dove... Quindi c'è anche sfruttamento della manodopera. Esatto, li salvi, come minimo ti devono leccare il culo dalla mattina alla sera, insomma. E ci sono questi animali, queste bestie corrotte, questi mostri corrotti che vanno in giro a corrompere con la mazzetta e corrompono a destra e a manca. Bellissimo. Ve lo consiglio, costa attualmente 7,49 euro. Mortacci, ho sempre da 75% del sconto. Giochi costosissimi rispetto a quelli che ho io nella wishlist, ragazzi. Comunque, il mio terzo gioco. C'è giustamente Gianluca che mi chiede come si chiama il gioco. Se è il secondo che dici, si chiama Bella Donna, tutto attaccato. Come l'attrice porno, ripeto, no, non lo cercate su Google, bravo. Se la vi viene fuori Bella Donna diventa fuori un casino, insomma. Il mio secondo, esatto. Invece, il mio terzo è Vandals, che costa per un euro. Questo costa con l'80% di sconto 0,89. Minchia. E praticamente la descrizione è Sneak and Paint Puzzle Game. Cioè, praticamente, non so se avete presente, c'è sia su Hitman che su Tomb Raider quei giochi fatti a tasselli, praticamente. Quindi tu praticamente lo schema del gioco è fare un percorso senza essere presi dai tasselli nemici, però fatti ovviamente con i personaggetti, insomma. In questo caso, nello specifico, tu sei un Vandals, cioè sei un Vandals, poi sei Vandals, non sei uno, sei due, sei un Vandal. Vabbè, sei un... poi perché poi questa questione che è un Vandalo? Cioè lui deve fare dei graffiti sui muri. È un Vandalo, quindi. Ma perché, scusa, potrebbe essere anche un artista, perché Bansky è un perché esatto, perché lo sviluppatore ha dato perché questa disegna di merda connotazione, no? Perché in realtà poi non disegna lui, disegni tu, cioè poi fai i cazzi sui muri quindi è tutti pieni di cazzi sto gioco, secondo me, esatto. Io vorrei andare a vedere nei computer di chi ce l'ha installato, mi fai vedere i disegni ti cazzi, faglielo vedere a papà che cosa hai fatto con qualcosa, insomma. E, ed è carino perché in realtà è un puzzle game di quelli un po' articolati, perché all'inizio sembra una stronzata, poi dopo ovviamente i percorsi diventano sempre più difficili, ma poi peggiora. E sì, vabbè, il gioco poi alla fine è sempre lo stesso, soltanto che chiaramente la mappa nella quale doverti districare ed arrivare nelle mosse giuste a fare, insomma, diventa come al solito, provi, sbagli, sbagli e provi, è carino, insomma. Vai, scusate, però visto che ci siamo, vorrei introdurre una variante. Josephine, papà, per il Black Friday che videogioco vuoi? Ci sta riflettendo. Beh, dai. Vabbè, i tempi che videogioco compreresti? Mario Golf. Vabbè, mia figlia vota per Mario Golf, io no, perché fa cacare. Visto che ci siamo, vuoi sapere qual è il terzo nella lista del dolore che ho su Steam? Sì, perché questo vale la pena. È Okami HD a ben 10 euro. Ma soprattutto HD è quella la cosa importante. HD lo dici dopo, prima o dopo aver pagato. Scusa, Puccio, scusa, abbiamo un contributo dalla regia. Scusa, prego. Panino, sbrigati, amore, non possiamo arrivare tardi al cocktail di papà. Sto lavorando al computer, mamma, adesso vengo. Ma che farà? Sempre al computer, questo mio piccolo genio. Vabbè, qui si vede, sta facile, sta facile. Oh, eccolo qui, Stefano. Non c'è niente da fare, ormai lui è più esperto di me in questo campo. Vedeste che cosa non mi combina con il suo computer. Stefano, vuoi dire ai nostri giornalisti che cosa hai fatto di bello con il computer oggi? Una scippa di cazzo. Ecco, vada mamma, va. Devi abbiamo autorizzato comunque libertà di linguaggio. Comunque questo film, ragazzi, rimarrà, cioè, allora il film è un fenomeno paranormale. Sì, esatto, il film è terribile, cioè nel senso è proprio forse una dei più brutti che ha fatto, però questa scena, sì, due o tre scene della ceppa di cazzo, ragazzi, era fenomenale. Perché poi è il futuro, insomma, cioè il presente. E poi se tu consideri questo film, c'è stato un sacco di guest star, c'era, come si chiamava quello che camminava sui carboni ardenti? Giucas Casella. No, cioè, a parte Giucas Casella c'era Amato, come si chiamava quello che Mino D'Amato. Mino D'Amato, bravo, Pippo Baudo, c'era un sacco di gente dentro sto film, quindi alla fine quando non sai cosa scrivere, e noi ci ricorderemo questo film perché bello, del papà, che stai a fare col computer, la ceppa di cazzo, ecco. Un film fatto per far ricordare la gente le ceppe di cazzo. Esatto, per il motivo per cui ci compravano i computer, perché che poi tra l'altro che cos'era, un Big 20 mi pare, no era una cosa, non lo so, te devo dire, forse un computer, magari era un computer. Puccio, vai, dici il tuo number 3. Sto dicendo, il mio numero 3 nella lista del dolore è Okami della Capcom, che è un bellissimo gioco sul folklore giapponese, Okami, dove controlli una volpe con la coda fiammeggiante. Tra l'altro c'è tutta questa grafica un po' in cel shading, però con i disegni molto manga, o meglio un misto tra l'animazione classica giapponese e l'arte classica giapponese, tipo, che ne so, il... oddio, ce l'ho pure appeso qua, non mi ricordo come cazzo si chiama, Hokusai, perdonatemi. È molto bello da vedere, poi rifatto in HD in alta risoluzione, proprio su PC ci sta una crema. Non me lo sono mai comprato perché di solito sta intorno ai 20-25 euro, e invece a 8 euro si può fare. Bene. È divertente. Bene. Ho giocato su PlayStation, credo, la prima volta a questo, niente male. Su PlayStation, guarda, ve ne dico un altro anche io, dai, così giusto per spezziamo sta cosa, andiamo magari a chiudere, insomma, magari dicendo quello che stiamo anche giocando. La mia, però. Ah, tu c'è, giusto, scusa. Anche Cazzo. No, il mio terzo è, allora, aspetta, un mentre gioco tu fighetti, dici questa cosa, mando il link a Carlo Santarossino per sapere che computer è il famigerato computer della ceppa di cazzo, insomma, noi ci teniamo. Il mio number 3 era fatto apposta. Sì, il mio number 3 invece è Astroneer, che comunque è un gioco che secondo me non ci divertiremo tantissimo. Ah sì, ma no, ma poi abbiamo giocato qualcosa, tipo la demo. Non Astroneer, non mi sembra. Cioè, ma era quello con l'estetica sovietica degli anni... No, questo è molto colorato. Ah, quello è a Kerbal, che si può giocare in coop fino a 4, poi devi sopravvivere, costruire basi, fare di sfere pianeti. Un po' alla No Man's Sky, ma molto un po' più cartonesco, insomma. E costa però la bellezza di 18,19 euro, scontato del 35%, che è un inusitato, cioè prezzo pieno. Sì, perché costa quanto? Costa 22 euro, insomma, quindi sconti in cazzo, insomma, sconta a cazzo, cioè. E quindi resterà lì nella lista dei desideri come tante altre cose, vabbè, fino a che magari alla fine non uscirà, insomma. Ah, questo qua, aspetta, ne voglio cercare uno che mi piace, che magari posso... Però non è nella tua lista. Sì, è nella mia lista, però... Non è il terzo ultimo. No, sto cercando te, perché sono tutti... Pensa che la mia lista è formata attualmente da 6 giochi. No, io ce ne ho diversi. Ah, questo qua è carino. Ti dico, aspetta, però velocemente gli altri tre. Beh, ma veloce, che è Pray for the Gods, che è quello praticamente la copia clone di Shadow of the Colossus. Ah, sì, ho capito. Okay. Sì, ho capito. Poi c'è X4 Foundation, ovviamente. E poi il primo, che non scenderà mai di prezzo fino a meno altri 4 anni, che è Baldur's Gate 3. Beh, quello è ancora, sì, deve ancora uscire. Sì, ho capito, ma appunto che deve uscire costa 60 euro, ragazzi. Cioè, non scherzavo, insomma. Solasta stava su coso, sul Game Pass, valeva la pena anche per quello, devo dire la verità. Per chi piace. Sì, Solasta me lo installo. Però mi sa che te li sbrigà, perché non so quanto. Sì, mi sa che durava 2 settimane soltanto. Comunque, 90% di sconto. Questo considera il decimo posto, quindi figurate quanta merda c'ho sotto l'euro. Al 90% di sconto per 0,99. Cioè, questo gioco che è molto molto carino, io lo trovo veramente carino. Cioè, ho visto alcuni gameplay che me lo voglio giocare. Anche questa è una sorta di avventura, più avventura puzzle game a livello però estetico, tipo un cartone animato che tu devi mandare avanti facendo determinate cose, che è The Office Quest. Non so se conoscete. Devi sopravvivere all'ufficio. Allora, i giorni in ufficio sono tutti uguali, e questo, insomma, lo sappiamo, no? I soliti tasti da cliccare, le solite riunioni noiose, i soliti... Che cazzo? Le solite sofficitudine, ma che dici? Sofficitudine. Chi è che vanno? Vabbè. Finché non succede qualcosa di strano e magico, devi sgattaiolare subito, via dall'ufficio, non importa in che modo e via dicendo. Cioè, praticamente tu, cioè, tutte queste scene sono singole scene, dove tu devi trovare la sequenza di cose da fare per passare alla scena successiva. Il tuo scopo è quello di abbandonare l'ufficio, di scappare via proprio dall'ufficio. È carino, è un stile un po' pseudo bianco e nero, in seppia, diciamo così, molto cartunesco, perché è proprio disegnato. Devo dire, carino. Tanto guardi, si è levato le cuffie. No, dice tutto a posto. Perché deve bestemmiare, sta girando il collo, tipo l'esorciccio, non so. Vabbè. C'è la cervicale. Dai, diciamone uno a testa, io l'ho detto, di una e poi chiudiamo, perché tanto. Ma andiamo fuori lista, dici uno. Sì, uno a caso che ti dici, insomma. Vabbè, io l'ho detto tutti. Sì, infatti, manca solo Carmine. Ma di quelli non in offerta in questo momento, vediamo. Di quelli in offerta. Ah, Hades. Ce l'ho già in realtà, perché l'avevo pagato a prezzo pieno, perché insomma, ne avevo sentito parlare benissimo. Ambientazione antica Grecia, che stranamente non è sfruttatissima nel mondo dei videogiochi, tolto Assassin's Creed, ma per ovvi motivi. Fatto dai tizi di... mo' è diventata nordica l'ambientazione di God of War. È fatto dai tizi di Supergiant Game, ha vinto tutti i premi di sto mondo e dell'altro. Voi controllate Hades, che sta cercando di scappare dagli inferi perché vuole parlare con sua madre. Ogni volta che muore deve ripartire dai livelli più bassi e pian piano risalire fino ai campi Elisi e poi tornare alla terra. Ogni volta che ricominciate, vi assicuro lo farete spesso, vengono sbloccati nuovi dialoghi nelle sale dell'Ade, e quindi pian piano la trama si svela, ripetendo sempre il tentativo di fuga. Tutti i livelli sono procedurali, quindi ogni partita è diversa. All'inizio di ogni partita si ricevono dei doni dagli dei che poi più o meno indirizzano la build che vi farete nel corso della run fino a quando non morirete, quindi ne dovete rifare un'altra dall'inizio. C'ha gli scontri con i boss che sono abbastanza divertenti, perché tra l'altro i boss mutano, perché a seconda di alcuni dialoghi che andate a sbloccare i boss cambiano aspetto o vengono sostituiti da altri, oppure se fate determinate scelte, per esempio, vabbè, senza far spoiler ai campi Elisi, invece che trovare due boss ne troverete solo uno. Dipende. Sta in questo momento alla bellezza di 14,69€. Mi pare che sia anche compreso nel Game Pass, però soldi ben spesi, cioè questo ve lo potete comprare pure a prezzo pieno, sono soldi assolutamente ben investiti. Benissimo, intanto mi sto attivando pure cosa, Warhammer End Times qua, insomma, non ho mai saputo. Vale la pena? È praticamente uno shoot 'em up in prima persona, un gioco di ruolo in prima persona dove controlli una mezza squadra di infestatori. Mamma. Se ti piace l'ambientazione di Warhammer Fantasy, è niente male. Ok, allora ragazzi, NeoGab ve l'ho detto, se vi capita giocate Mountains of Madness del nostro carissimo amico Umberto Parisi, che salutiamo sempre chiaramente, anzi di cui vorremmo conoscere la lista dei desideri di Steam, ma infatti ero quasi indeciso di invitarlo, devo dire, però ultimamente l'ho visto un po' impegnato, però quando mi è venuta in mente questa puntata era un po' tardi, insomma, se no, però la prossima volta glielo facciamo venire. E vabbè, niente ragazzi, questo è tutto. Che cosa stiamo giocando? Io già ve l'ho detto, sto giocando ovviamente Ruined King, League of Legends Story, e Marco invece sta giocando a Metro Exodus. Metro Exodus, come ci stai giocando? Quale computer? No, su GeForce Now. Ah ok, vedi. Comunque avvicinate il microfono. GeForce Now. E tu invece, Buccio, stai giocando? Io ho finito The Last Campfire qualche giorno fa, non sto giocando a niente seriamente. Mi sono comprato Cotton Reboot l'altro giorno perché volevo un gioco che non mi costringesse a usare il cervello. E devo dire, mi sta piacendo parecchio. Poi ci sto giocando con mia figlia, che in questo momento sta cercando di addormentarsi sulla mia poltrona. Vabbè, poi c'è chi riesce particolarmente bene non usare il cervello, ma sostanzialmente. Sì, no, a me guarda, è facilissimo. Senti, proprio, come si chiamava invece quell'altro tipo visual novel che avevi detto? Foreclosed. Che mi sto comprando, volevo dirvi, visto che ci siamo. Ok, così me lo... Ah, ma non sta su Steam. Ah sì, eccolo qua. Sì, no, certo, resta su Steam, sta pure in offerta. Sta in offerta a un prezzo che è totalmente al di sopra delle mie 0,99. Del mio budget, esatto. A 9,49, 8,49. Vabbè, ok. Dai, mo ci penso un attimo. Bene, ragazzi, allora, vi ricordo che domani mattina torno io alle 7, dalle 7 alle 8 di mattina con Buongiorno un Cazzo. Durante l'arco della giornata ci sono sempre le solite trasmissioni storiche di Runtime Radio, che da 10 anni, 11 anni a questa parte vi ha regalato tantissime ore di podcast. La sera torniamo con Quando eravamo futuro, con una trasmissione dedicata alle sigle delle serie TV degli anni 70, quindi non so in che maniera poi Carlo Sant'Agostino ha settorizzato questo tipo di cose, che sicuramente potrebbe farvi piacere, insomma, da ascoltare. E poi vabbè, durante domani è giovedì, poi c'è venerdì che c'è tutto il resto della programmazione. Vi ricordo che domani sera c'è sempre dalle 20 alle 20:30 ovviamente Walter Sbano con le orazioni della sera, quindi vedete che alla fine anche domani una bella giornata, bella ciccia di Runtime Radio. E proprio perché la giornata è tanto ciccia, io vi ricordo sempre che se fate una capata su runtimeradio.it e andate su Runtime Anch'io, potete fare una donazione, una tantum su PayPal, così giusto per dire ti pago sto biglietto, sei stato troppo simpatico, oppure fare una donazione ricorrente su Patreon, che insomma non ci fa mai schifo, e tutti questi soldi chiaramente ci aiutano a sostenere le spese della piattaforma, che come sapete non è più solo podcast ma è anche radio in streaming, e quindi insomma alla fine un contributo ci fa sempre piacere, se no altrimenti amici come prima non succede assolutamente niente. Detto questo, io ringrazio e saluto Marco Gualdis. Ciao. Che sta giocando in questo momento? Poi, a cosa stai giocando? A Candy Crush? No, sto guardando le offerte. Le offerte, vedi, oramai è intrippato nelle offerte, chissà cosa ne esce fuori. Ringrazio e saluto ovviamente Carmine Puccio Console. Ciao. E ci vediamo la prossima settimana con non lo so poi se ci vediamo la settimana. Se ci viene un tema, lo facciamo in the medium, on the medium. Io the medium. Ah, the medium. Ah, scusa, io non vedo più a quest'ora. Cioè, che cuciniere ci fa sapere che lui sta giocando a The Medium. Sì, è figo The Medium. Io ho iniziato a giocarlo sul Game Pass, però quando c'erano le scene split screen, la mia scheda video faceva così, guardate. E andava a 4 fotogrammi al secondo, quindi ho dovuto lasciare perdere. Marco Gualdi mi dice, leva i dettagli, leva i dettagli. Leva ma io non ce la faccio a giocare a un gioco che so che è bello da vedere, che invece leva i dettagli. Come, poi ce li rimetti, esatto, in wireframe. Esatto. Tipo tu con cosa, con Red Dead Redemption, esatto. Vabbè, salutiamo Deborah, salutiamo Gianluca, salutiamo Francesco che ci hanno ascoltato. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima settimana, se Dio vuole. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.